il proverbio cinese. Nicolone andò a sedersi sulla riva del Po per aspettare che passasse sulla corrente il cadavere del suo nemico, come insegna un famoso proverbio cinese. Il suo peggiore nemico andò a sedersi anche lui sulla riva dello stesso fiume, sperando di veder passare il cadavere di Nicolone, senza sapere che Nicolone si era andato a mettere anche lui sulla riva a aspettare, ma più in basso, più vicino al mare. Quando lo venne a sapere, si spostò di nascosto verso il basso. Ma Nicolone se ne accorse e si spostò anche lui verso il mare, di notte in punta di piedi, perché l'altro non se ne accorgesse. Nicolone e il suo nemico continuarono a spostarsi sempre più in basso per stare l'uno al di sotto dell'altro, perché sapevano che i cadaveri non vanno controcorrente. Piovve per un mese di seguito, una pioggia fitta, e i due nemici si fecero prestare l'ombrello dai contadini che abitavano da quelle parti. Nicolone e il suo nemico continuavano a spiarsi a vicenda e a spostarsi sempre più verso il mare, camminando sotto la pioggia, fradici dalla testa ai piedi. Tutti e due si odiavano talmente tanto che non volevano abbandonare la riva del fiume prima di avere visto passare sulla corrente il cadavere dell'altro. Dopo la pioggia venne il sole, poi di nuovo pioggia e vento. I due nemici continuarono a spiarsi a vicenda e a spostarsi in continuazione perché ognuno voleva stare sempre più in basso dell'altro. Il Po è un fiume molto lungo e i due nemici percorsero profonde vallate, poi una zona di colline e infine un'immensa pianura, camminando sempre verso il mare. Avevano capito che il proverbio cinese insegnava la pazienza e la perseveranza nell'odio, e loro si odiavano con pazienza e perseveranza. E intanto continuavano a spiarsi e a spostarsi. Dopo un mese di spostamenti, si trovarono alla foce del fiume, in riva al mare. Stavano uno da una parte e uno dall'altra, e non potevano più muoversi perché non sapevano nuotare. La zona era tutta canneti e il terreno fangoso. Stavano proprio per perdersi d'animo quando arrivò improvvisamente una piena che li travolse entrambi, trascinandoli nei gorghi vorticosi insieme ai loro ombrelli. Naturalmente affogarono. I cadaveri dei due nemici galleggiarono sull'acqua torbida e impetuosa, e così nessuno dei due ebbe la soddisfazione di vedere realizzato il proverbio cinese. La moglie di Nicolone e quella del suo nemico, quando seppero come erano andate le cose, dissero che i proverbi cinesi non valgono in Italia, valgono solo in Cina, per i cinesi.